quindi unendo queste due cose mi è venuto in mente di fare proprio uno spettacolo dove io, avendo l'abitudine a dedicare, volevo proprio dedicarlo a, alle persone che avevo perso, ma anche a degli archetipi di persone che uno incontra nella vita e che in qualche modo un po' ci colpiscono o ci rappresentano. Quindi è nato questo progetto, insomma, partito fondamentalmente dopo la lettura di un libro di poesia di Franco Arminio, Cartolini dei morti. E quindi così è nato, diciamo, e così si è evoluto, perché è un progetto anche un po' in evoluzione continua. Lì a Stromboli c'era anche la musica insieme, certo, alle tue parole. E sarà così, certo, anche adesso negli sviluppi che ci sono stati? Assolutamente. In realtà i funerali sono proprio delle canzoni. Cioè io ho pensato che spesso sento dire tipo alla mia morte fate una festa, no? Vedete. Io ho sempre invece pensato che a me mi piacerebbe che qualcuno mi dedicasse una canzone, per esempio la mia morte. E quindi, siccome io poi sono un cantante fondamentalmente, ho pensato che era il mio modo di salutare queste persone, potesse essere una canzone che o sapevo che per quanto riguarda le persone proprio, come dire, di cui io non ho conosciuto e voluto bene, sapevo che quali erano le canzoni che mi piacevano, oppure quando si tratta di questi archetipi, queste persone che poi non sono veramente esistite ma che potrebbero essere esistite, ho immaginato una canzone che li potesse rappresentare o comunque accompagnare nel saluto. È una struttura molto semplice perché diciamo che sono sempre le persone in prima persona che parlano di se stesse e ti parlano proprio del momento della morte, il momento in cui sono andate via e a cui è abbinata una canzone. È una struttura estremamente semplice. Diciamo, infatti io faccio un po' fatica a pensarlo sia come concerto che come spettacolo, è un rito più che altro secondo me, è un rito che mi piace fare e da quello che ho visto è stato accettato come tale dagli spettatori. Dopo quell'esperienza a Stromboli ha proseguito quindi il suo tragitto? Ho fatto soltanto una versione ridotta al Festival di Sant'Arcangelo, una versione ridotta soltanto mezz'ora, ed è stata una situazione completamente opposta, perché erano entrambi all'aperto, veramente Stromboli era in questo cimitero antico che dava sul mare, con dietro il vulcano, quindi era una situazione dove la natura era proprio presente, c'erano gli uccelli, si sentivano addirittura un po' le onde del mare in lontananza, e in Sant'Arcangelo invece l'abbiamo fatto in un bosco di notte, c'era un'illuminazione, ma io chiesi praticamente di ridurla proprio al minimo, quindi è stata fatta praticamente di quel buio. Infatti le persone praticamente si sono stese sul prato e guardavano le stelle, quindi c'è stato uno sguardo proprio quasi e verso l'infinito. E infatti anche lì mi hanno detto che è stato un bel viaggio, perché veramente praticamente sentivano soltanto, e nel frattempo avevano questo sguardo verso le stelle. E diciamo che mi piace molto che abbia questo rapporto con un esterno forte. Credo che sia giusto, che nel composto chiuso. Poi adesso appunto facciamo un'anteprima all'Angelo Mai, il 19, e poi il 22 ci sarà ai Teatri del Sacro, perché il progetto che appunto ha vinto quest'ultima edizione, e quindi io farò al Teatro del Sacro, che mi sembra proprio poi la sede più giusta per farla, insomma. Ecco, per saperne di più ci sono dei riferimenti internet dove si può vedere? No. Quindi no, per no, al no, momento no. C'è solo l'evento Facebook dell'Angelo Mai. Esatto, okay. Esatto. Sì, c'è sta anche sul sito degli Atti del Sacro e non ci sono registrazioni. E allora ricordiamo l'appuntamento con Maurizio Rippa, autore e interprete dello spettacolo Piccoli Funerali, a Roma all'Angelo Mai, mercoledì 19 giugno 2019 e ai Teatri del Sacro il successivo 22 giugno. Maurizio, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille. Ciao. Con